Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da agosto a dicembre del 1846. Crolla ancora il raccolto irlandese, decine di migliaia di morti, governo britannico sotto accusa. La prima enciclica di Pio IX è contro i massoni e le società segrete. Muoiono in esilio Piero Maroncelli e il conte Federico Confalonieri. L'ha già usato Berlioz e piace a Rossini, ora un nuovo strumento, il sassofono, è brevettato. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione torniamo in Irlanda, dove la carestia nata da una malattia della pianta di patata sta assumendo i contorni di una tragedia. Le vittime della fame non si contano. C'è chi, soprattutto dalle parti di Londra, tende a minimizzare parlando di qualche centinaio, ma dai dati che filtrano tramite fonti non ufficiali la cifra potrebbe essere molto più alta, 100.000, 200.000, forse ancora di più. Di certo si sa che il raccolto di quest'anno si è ridotto dell'80% rispetto a un anno fa, mentre il governo inglese si attendeva qualcosa di diverso. Tanto che Charles Trevelyan, l'alto funzionario del tesoro britannico incaricato di gestire l'emergenza, ha rifiutato in giugno un nuovo carico di grano indiano. Le parole di Trevelyan danno l'esatta misura di come la veda l'esecutivo di Londra. La carestia, ha scritto, è un meccanismo per ridurre il surplus della popolazione, aggiungendovi una nota mistica. Dio ha mandato questa calamità per dare una lezione agli irlandesi, dunque gli effetti non devono essere mitigati troppo. Il vero male da combattere, ha proseguito, non è il male fisico della carestia, ma quello morale del carattere egoista, perverso e turbolento della popolazione. Parole atroci, accompagnate da comportamenti coerenti con questo pensiero. La scelta di impiegare gli irlandesi senza occupazione nei lavori pubblici, al momento sono circa 400.000, non sta pagando. Gli stipendi troppo bassi per mantenersi arrivano in ritardo, si segnalano casi di morte per fame sul lavoro, molti emigrano, mentre l'opinione pubblica inglese non si smuove. L'autorevole Times definisce gli irlandesi pigri e ottusi nel loro lamentarsi, la maggioranza dei sudditi di Sua Maestà è d'accordo. Ma per le strade dell'Isola Verde si trovano cadaveri di uomini, donne e bambini morti di fame, con ciuffi di erba in bocca. Paolo Piacenza e il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E ora in Italia, dove Pio IX ha promulgato la sua prima enciclica, nella Qui Pluribus, una condanna alle società segrete e al nuovo movimento che si sta sviluppando in Europa, il comunismo. Riferendosi a queste dottrine, il Papa parla di insidie di coloro che in vesti di agnelli ma con animo di lupi dolcemente sorprendono, mollemente stringono, occultamente uccidono e fanno scempio del gregge del Signore. Entrambi cospirarono insieme a Silvio Pellico, entrambi furono detenuti con lui allo Spielberg. Parliamo di Piero Maroncelli e del conte Federico Confalonieri, scomparsi il primo a New York, il secondo a Hospenthal in Svizzera, mentre da Parigi cercava di tornare in Lombardia. I due sono morti entrambi in esilio. Il grande compositore francese Berlioz ne è entusiasta e lo ha già utilizzato nel suo lavoro Le Dernier Roi de Juda, ma pare che piaccia anche Gioacchino Rossini. Parliamo di un nuovo strumento musicale, quello che state sentendo. Si chiama sassofono e il suo inventore, il belga Adolf Sax, lo ha appena brevettato. Da quel che sembra è destinato ad avere un certo successo. Ed è tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento o fatelo prendendo penne e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.